Quanti giorni mancano, chissà se ti manco o no. Sono stato stupido, maledetto cupido, che lancia frecce a caso. Tu dai la colpa al fato, ma sei un dato di fatto. Dici cambia e son cambiato, ma io ricordo ancora che ribella con il trucco e ribella senza, ma non c'era nessun trucco. Si muoveva la mia stanza come l'America. Poi ti ho scoperto, eri nuda dentro al letto. Ed io Colombo, non ricordo da che non memoria un amore di questa portata. Se riaprissi il mio libro di storia, saresti nel mezzo di qualsiasi data. Nell'antico Egitto mi sembri Cleopatra, così bella che ti han disegnata, coi tuoi occhi da donna indecisa. Sei la fine del mondo dei Maya, un quadro rubato, la Mona Lisa. Incontrarsi per caso e dirsi che in amore non perdi o vinci. In amore basta capirsi, sei come un codice da Vinci. Ti ho portato a guardare il cielo ed insieme lo riempivamo. Siamo forme ideali e spazio come l'uomo vitruviano. Ci penso e rido come un bambino e il suo aquilone che prende e porta via con sé. In mezzo al mio cortile sta crescendo un fiore tra risate e lacrime. Eri bella con il trucco, eri bella senza, ma non c'era nessun trucco. Si muoveva la mia stanza come l'America. Poi ti ho scoperto, eri nuda dentro al letto. Ed io Colombo, non ricordo da che non memoria un amore di questa portata. Se riaprissi il mio libro di storia, saresti nel mezzo di qualsiasi data. Nell'antico Egitto mi sembri Cleopatra, così bella che ti han disegnata, coi tuoi occhi da donna indecisa. Sei la fine del mondo dei Maya, un quadro rubato, la Mona Lisa. Ti dico un ciao, che è un po' un addio, perché non mi rivedrai, ma mi ricorderai come il sogno più strano che hai fatto. Non sai dire se è bello o se è brutto, ma vorresti di nuovo rifarlo e magari sognarmi nel dubbio. Eri bella con il trucco, eri bella senza, ma non c'era nessun trucco. Si muoveva la mia stanza come l'America. Poi ti ho scoperto, eri nuda dentro al letto. Ed io Colombo, non ricordo da che non memoria un amore di questa portata. Se riaprissi il mio libro di storia, saresti nel mezzo di qualsiasi data. Nell'antico Egitto mi sembri Cleopatra, così bella che ti han disegnata, coi tuoi occhi da donna indecisa. Sei la fine del mondo dei Maya, un quadro rubato, la Mona Lisa.